pubblico così numeroso e partecipe. Ringrazio innanzitutto l'architetto Lucchin che ha avuto l'idea e ha proposto questa serata. Con lui abbiamo avuto parecchie occasioni di incontro per capire, concepire, vedere come organizzare questa serata. Mi è piaciuto tantissimo il tema della creatività, il tema di come alimentare la nostra creatività, il nostro modo di ragionare e di rendere il cervello, insomma, le nostre potenzialità sempre più ricche e articolate e soprattutto funzionali. In questo la biblioteca, a maggior ragione, può essere una straordinaria occasione per tutti noi, frequentandola, di mantenere sempre vivo un interesse, di mantenerci anche in relazione e in contatto con le altre persone, perché la biblioteca è un posto libero che può essere accessibile a tutti e gratuitamente e che mette a disposizione di tutti come servizio pubblico tantissimo materiale, ma soprattutto anche attiva tante connessioni. Ringrazio quindi l'architetto Lucchin, ringrazio anche il nostro direttore di Dipartimento e Ripartizione, il dottor Lampis, che in questo crede tantissimo, vero? Mi permetto di anticiparlo. E quindi lascio subito la parola al dottor Lampis, che poi dovrà spostarsi presso l'Università di Bolzano per un altro impegno urgente, e avremo con noi appunto l'architetto Lucchin e una bellissima sorpresa che è Gigi Gratta, che ringrazio tantissimo. Ecco, cedo la parola subito al dottor Lampis e ringrazio tutti voi, ricordandovi però, ecco, perché io faccio sempre lo spot, i nostri appuntamenti. Martedì 23 gennaio avremo con noi la presentazione insieme a Leo Andergassen, Devozione e Potere, l'altare di Castel Tirolo, quindi 23 gennaio 17:30 qui con noi Leo Andergassen. Poi avremo il 21 febbraio il gruppo di lettura dedicato alla Nel nome del padre, interessantissimo questo libro, è il gruppo di lettura localmente, mercoledì 21 febbraio alle ore 17. E infine il prossimo appuntamento 24 gennaio all'interno del Remember Festival, Dittature di confine, Trentino Alto Adige, Tirolo 1935-45, con Gardumi, Steinhaus e Villardi. Questo il 24 gennaio, nell'occasione anche della giornata della memoria. Vi lascio e grazie. Grazie Valeria. Allora, grazie a voi intanto di essere così numerosi, segno dell'interesse che desta questa nuova avventura intellettuale dell'architetto Lucchin, che io conosco da tanti anni e che sono molto orgoglioso di presentare oggi qui, insieme appunto alla bravissima direttrice della nostra biblioteca provinciale che avete appena sentito. Io mi scuso in anticipo, appunto, come diceva la dottoressa Trevisan, alle 18 si nomina il rettore dell'università e io sono purtroppo vicepresidente di quell'università, devo scappare a votare e quindi facciamo pure questa cosa qua. Però ci tenevo a onorare la promessa a Claudio Lucchin di essere qui, perché questa è una materia che insieme con i miei collaboratori abbiamo pionieristicamente in Italia e anche in Europa trattato fin dal 1998, quando in Svezia moltissimi medici pubblicarono una ricerca che diceva che la frequenza di 80 eventi artistici e culturali era il principale fattore di allungamento della vita. E da allora noi abbiamo cominciato a dire la cultura allunga la vita, la cultura allunga la vita, anche per salvare un po' i soldi della cultura rispetto a chi pensava solo alla sanità, al sociale e a costruire. Dopodiché invece sono arrivate intorno al 2015, quindi dopo diversi anni, le grandi ricerche scientifiche, alcune di una grande casa farmaceutica italiana e poi di due università, di tre università, di ormai più di 100 università. E nel 2019 il grande rapporto su economia, su arte e benessere, arte e neuroscienze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Oggi la parte scientifica di quella che fu un'intuizione è molto assodata. Nel 97 i medici svedesi non tradussero in inglese la loro ricerca perché come medici gli dava fastidio che non fosse l'alimentazione, che non fosse il fumo, che non fosse lo sport. E quindi noi qui con i miei bravi funzionari e una signora che sapeva lo svedese abbiamo tradotto per l'Europa, insomma in italiano, in inglese e in tedesco, questa ricerca. Quando poi sono stato direttore generale dei musei, ho avuto la possibilità di conoscere le ricerche del CNR su questo tema, e che sono guidate da un tale professor Babiloni, il quale mette l'elettrocardiogramma in testa alle persone che guardano i quadri. Lo ha fatto nelle grandi mostre al Quirinale davanti al presidente Mattarella e ne ha fatto un report medico molto interessante che qui regalo oggi all'architetto Lucchin. Adesso poi si fa anche questo lavoro della verifica del lavoro del cervello di fronte al processo di creatività, quindi quello passivo della visita e quello attivo ancora più interessante che ci propone proprio oggi qui l'architetto Lucchin, cioè di dipingere, del fare musica e di tante altre vicende di questa cosa che ci distingue da tutte le altre specie che vivono e che popolano il nostro pianeta, insomma, che appunto chiamiamo lavoro degli artisti, creatività, eccetera. E anche queste evidenze nuove sono molto incoraggianti. Noi qui siamo anche inseriti in una rete molto importante nazionale che è nata per coordinare tutte le persone che indagano sul rapporto fra arte, creatività, benessere, neuroscienze e funzionamento del cervello. Questo network italiano si chiama Cultural Welfare Center, è presieduto da Caterina Seia, che forse qualcuno di voi avrà visto con me in televisione, è comunque una delle grandi dame della ricerca del fare cultura in Italia, ed è riuscita a mettere insieme ospedali, centri di ricerca, il CNR stesso, grandi musei e grandi luoghi della cultura, grandi teatri che collaborano da ormai quasi 6-7 anni attivamente per scambiarsi le loro esperienze. Noi qui col Teatro Stabile abbiamo avviato la convenzione con i pediatri per le ricette di teatro, che vengono fatte nella prescrizione rossa che voi conoscete sempre, e quindi in forma molto ufficiale, e abbiamo diciamo in arrivo un monitoraggio dell'esito di queste prescrizioni un po' anomale che sono diffuse anche in altre regioni italiane. E quindi ecco, oggi questo evento, perché lo posso proprio chiamare evento visto il numero di persone che è venuto ad ascoltarti, si inserisce in questo panorama che è nato un po' qua e che oggi è nazionale, europeo e mondiale, però appunto ogni tanto è bello vedere una persona così impegnata nella società come è stato per sempre, come è tuttora, Claudio Lucchin, fermarsi un attimo e lavorare per se stesso e per quello che oggi appunto ci racconta, utilizzando questa grande ricchezza dell'umanità che è il lavoro riferito all'arte, riferito alla creatività, e che effettivamente ha queste enormi conseguenze positive, esternalità positive sul nostro benessere, sull'allenamento del cervello, che giustamente dice come un muscolo, insomma, e va tenuto sempre acceso. Lo diceva Stendhal e lo diceva persino Aristotele, e adesso lo sentiamo declinato in termini locali, insomma, ecco. Da direttore dei musei ho scoperto che i grandi direttori dei musei mondiali hanno una loro privata classifica e si danno un punteggio sul numero degli svenimenti per sindrome di Stendhal. Più ne hai, più vali nello score mondiale. Ma è un club chiuso e non lo racconta nessuno. Oggi vi racconto questo aneddoto perché è molto carino. Mentre invece sono curioso di sentire ancora per 6-7 minuti e poi mi registrano, quindi ti ascolterò dopo, quello che ci racconta Claudio Lucchin di questa meravigliosa sua creazione e di tutto quello che ovviamente conoscendolo ha letto e scritto prima di presentarla in pubblico. Grazie, e grazie a voi dell'attenzione. No, io parlo con questo, però prima due secondi da. Ah, no, ma questo. Suona un attimo. Vorrei rassicurarvi tutti che non sono impazzito del tutto. Qualcuno potrebbe pensarlo. E non sono nemmeno... Me lo accendi? Perfetto. E non sono nemmeno... Non ho nemmeno questa supponenza di pensare di essere diventato un artista o un uomo che è in grado di fare tutto. Non è arte la mia, o perlomeno non è arte come la intendiamo noi. Quello che io questa sera voglio raccontarvi non è quanto sono bravo a dipingere, pur nato con la matita in mano e prima di iniziare a scrivere ho iniziato a disegnare. È un dono di famiglia, un talento che aveva mio padre, che ha mio fratello, che ho io, che ha mio cugino che ha fatto per molti anni l'artista, che ha mio nipote. Ma io non la considero una forma importante per me. Mi serve per allenare la mia creatività nella professione di tutti i giorni e anche nelle attività che mi accadono quotidianamente per trovare delle soluzioni che non siano usuali. Quello che mi è successo e che vi racconterò a breve è stata un'esperienza straordinaria e sorprendente. Mi ha sorpreso, per cui ho deciso di raccontarla. Perché il nostro processo mentale è in grado di fare cose straordinarie, però ha tre caratteristiche o tre limiti, se vogliamo. La prima consuma l'ira di Dio dal punto di vista energetico. Infatti il nostro processo mentale, il nostro cervello, appena può, lavora col pilota automatico. Spesso voi fate il tragitto casa-lavoro guidando la macchina o la bicicletta, pensate di essere voi coscienti. No, è il cervello che vi guida in automatico. E se vostra moglie una mattina, in un giorno casuale, vi dice: mi porti prima di andare in ufficio questo sacchetto, che ne so, a lavare da qualcuno, sicuramente tu arrivi in ufficio, guardi il sedile a fianco, ti accorgi che c'è il sacchetto, torni indietro, perché il tuo cervello, per lavorare a risparmio, per consumare il meno possibile, fa in automatico questa cosa. Altra cosa, spesso e volentieri, il vicino di casa dipinge il suo balcone di un colore strano e tu non lo vedi per giorni, per settimane, per mesi, finché non qualcuno non ti dice di metterci l'attenzione. E non perché tu sei distratto o sei un po' perso da altre cose, perché nella tua memoria rimane la fotografia di prima. E noi siamo convinti che il nostro sguardo vada dagli occhi al cervello, in realtà è esattamente l'opposto, va dal cervello verso gli occhi, perché la nostra memoria verifica l'immagine che già contiene in memoria e se è simile a quella che noi gli stiamo proponendo, cancella l'ultima. Farebbe troppa fatica a immagazzinare tutte le volte, tutte le immagini che noi... Immaginate che cosa significa per un computer ogni giorno 24 ore accumulare, 24, 22, 23, meno le ore che dormiamo, che però ci danno i sogni, che vuol dire altre immagini. Se dovesse accumularle tutte, non basterebbe la massa che abbiamo di 1200-1300 centimetri cubici per accumulare e elaborare tutte queste immagini. Quindi se lui può, appena può, le cancella. Altra caratteristica che ha è che è lento, analogico e lento. Noi viviamo in un'epoca digitale in cui sappiamo che possiamo accelerare circa ogni 6 mesi la velocità delle nostre macchine digitali, del nostro telefonino, ma il nostro cervello non può accelerare per nulla. C'era il famoso fondatore della Sony che diceva: io posso chiedere a un mio operaio di arrivare alle 8 di mattina, mettersi la tuta e alle 8:05 di iniziare a produrre sulla catena di montaggio. Non posso chiedere a un mio ingegnere di arrivare alle 8, alle 8:05 di sedersi alla scrivania e di inventarmi qualcosa. Perché potrebbe inventarlo dopo 5 minuti o dopo 5 anni. Noi non abbiamo la certezza di che cosa stimoli il nostro processo creativo. Ho portato un libro qui, estremamente affascinante, che si chiama Il padrone e il suo emissario, scritto da un inglese, Jean McGilchrist, che è uno psichiatra, neuroscienziato, ma che nella sua vita precedente è stato ordinario di letteratura. Questo uomo è stato un grande letterato, perlomeno storico della letteratura, e contemporaneamente, in una vita successiva, ma tutto sommato non è ancora morto, quindi così vecchio non è, è stato anche o è un grande neuroscienziato. Noi non sappiamo che cosa sia a stimolare la nostra creatività. Quello che tutte le ricerche ci dicono è che dobbiamo essere sollecitati da tantissime cose curiose che ci stimolano in maniera interessante. Ma se noi guardiamo tutto il giorno il cellulare o i social network, i social media, forse questa cosa non è proprio positiva per noi. La terza cosa, la terza caratteristica che ha il nostro cervello nel corso dell'evoluzione è che il nostro cervello si è evoluto per lavorare assieme agli altri cervelli, non per lavorare da solo. Il nostro cervello dà il meglio di sé quando lavora assieme agli altri. Noi viviamo però in un'epoca in cui tutti siamo isolati, lavoriamo da soli, ognuno è attaccato al suo computer, ci confrontiamo poco con gli altri. Pensate a Putin, ha scatenato una guerra dopo la pandemia. È stato chiuso molti mesi perché aveva paura di prendere il Covid, dentro nel suo bunker non incontrava nessuno e quando è finita la pandemia ha scatenato la guerra. Delirio di onnipotenza. Quando si è da soli ci si crede di essere Dio. Queste tre cose sono affascinanti e noi dovremmo, invece che puntare, come stiamo facendo, sull'intelligenza artificiale, dovremmo puntare sulla risorsa più straordinaria che l'evoluzione umana ha dato alla specie, il nostro processo mentale, che non è però sinonimo di cervello. Il cervello è un organo, sta al buio, sta al silenzio più assoluto. E perché dico processo mentale? Perché il cervello avrebbe già abbastanza da fare per controllare tutti gli altri organi del corpo. Ma noi, per rapportarci con il mondo, con il contesto in cui viviamo, abbiamo bisogno del nostro corpo. Qui c'è il professor Dubrilla che oggi ha scritto un articolo sul microbiota, che è quest'altro organo che abbiamo nella pancia, fatta da batteri, virus e chissà che altro. E non sappiamo bene che cosa fanno là dentro. Sembra che qualche volta ci influenzino anche che cosa noi vogliamo mangiare in funzione di quello che piace a loro. Chissà, potrebbe essere. Contemporaneamente, devi andare? Ciao. Contemporaneamente, il processo mentale è influenzato dal corpo, dai nostri sensi, dalle nostre intuizioni, dalla nostra memoria. Ogni memoria è diversa, perché le esperienze sono diverse uno dall'altro, è influenzato dal contesto ambientale, sociale, culturale in cui noi viviamo. Non tutti vivono in montagna come siamo noi, sapete che chi vive in montagna vive più velocemente, pensa più velocemente e muore prima, non c'è niente da fare, perché il tempo va più veloce in montagna, al mare è più lento, quindi sarebbe meglio trasferirsi al mare, soprattutto quando si diventa anziani. E questo processo mentale, che è influenzato, come dicevo, dal contesto ambientale, culturale e sociale, è anche influenzato tantissimo, ma noi ormai non ci facciamo più caso, dal caso, appunto. Ogni giorno il caso ci mette un bastone tra le ruote, ci fa inciampare e noi continuiamo a lamentarci con la dea fortuna o con la dea sfortuna, a seconda del caso. E non ci accorgiamo che il caso non è lì per caso. Spesso e volentieri è per darci la possibilità di aprire una nuova strada. In italiano si chiama serendipità, che vuol dire la capacità casuale di scoprire qualcosa. Metà delle ricerche scientifiche sono venute per caso. Ma siamo sicuri che sia il caso? O sono le nostre menti che, lavorando tutte assieme, riescono a produrre cose straordinarie che noi neanche abbiamo in mente. Cosa facevano i primitivi? Provo a darvi un'immagine. Foresta amazzonica, foresta dappertutto, c'è un piccolo slargo, quattro capanne di paglia messe di solito a semicerchio. Tuttora le ritroviamo nelle tribù primitive. In mezzo c'è un grande vuoto, che è l'embrione della nostra piazza. Cosa facevano queste tribù primitive? Si mettevano intorno al fuoco e iniziavano a cantare, a danzare, non perché gli piaceva la musica, la danza, il ballo, il canto, ma perché sincronizzare i loro cervelli. Poi si sedevano e iniziavano a parlarsi, a raccontarsi le esperienze, perché il giorno dopo dovevano andare a cacciare un mammut che era immensamente più grande di loro, e se non si fossero coordinati perfettamente e ognuno non avesse fiducia nell'altro, rischiavano di morire in 40. E chissà quante tribù abbiamo perso nel corso della storia perché non si erano messe abbastanza d'accordo o non avevano abbastanza fiducia tra di loro. Quindi vuol dire, nel corso dei millenni, degli anni, il nostro cervello si è evoluto per avere fiducia negli altri e per lavorare insieme agli altri. Ma noi siamo in una società che ha deciso che è meglio affidarsi all'intelligenza artificiale ed è meglio affidarsi alla solitudine di ognuno di noi. E riflettiamoci un attimo. Un tardo pomeriggio di agosto, dell'agosto scorso, e malgrado il climatizzatore continui a pompare aria fresca nella stanza, la mia fronte continua a imperlare di sudore il quadro che sto dipingendo. Sfinito da questo tirare colore, asciugare sudore o tirare sudore, asciugare colore, mi butto sul divano che è dietro di me. E nel momento in cui plano sul divano, tenendo le mani ben in alto perché non ho avuto nemmeno la forza di lavarmele, sono così sfinito da questa sessione di pittura che se solo provassi a girarle sporcherei tutto il divano e i miei vestiti, perché ho pure questo vezzo fin da piccolo di dipingere vestito come se stessi andando in ufficio. Non uso una tuta sporca e ogni tanto infatti me lo sporco e prima di arrivare a casa con la trementina cerco di tirare via il colore per non farmi sgridare. E mentre però plano sul divano, il pensiero va al titolo da dare a questo quadro. È alcuni giorni che ci sto pensando, ma nel silenzio della stanza di quel tardo pomeriggio, a un certo punto, una voce sottile e pungente mi dice: «Perché sei così stupido? Chi sei tu per darmi dello stupido? Il tuo io interiore? Ah beh, allora potresti effettivamente conoscermi meglio di quanto potrei mai fare io». Appunto, ti conosco, per quello lo dico. Ma perché mi dai dello stupido? Perché sono giorni che ti strascacchi le meningi per trovare il titolo. Ormai non è nemmeno più un titolo da quadro, ma è un titolo da film di Lina Wertmüller. Noi che siamo tutti un po' anziani, ci ricordiamo quei titoli infiniti. E io quello che stavo pensando era: perché mai dovrebbe piovere in questo torrido agosto? E cosa vuoi altro aggiungerci? Mi dice. Ma no, ma ci sto ancora lavorando, non è il titolo definitivo. Ma non vedi, stupido, che è scritto lì, stampato, bello in chiaro, sulla tela? Eh no, se l'avessi visto non sarei qui a tormentarmi sul titolo da dare. Eh già, è vero, non ci ho pensato. Infatti il quadro l'ho fatto io, dice lui. Come l'hai fatto tu, con tutto il sudore, la fatica? Sì, tu ci hai messo le mani, il sudore, ma le ho guidate io, tu non ci hai pensato. E quale sarebbe questo titolo straordinario che è stampato, che io non vedo? La quadratura di Heidegger. E che titolo è? Non ti ricordi che qualche anno fa l'abbiamo letto, La quadratura di Heidegger? Tu eri distratto, poi a te ogni tanto non comprendi bene Heidegger, ma io ne sono rimasto colpito e l'ho archiviato nel posto giusto, sapendo che prima o poi sarebbe tornata utile. E vedi, adesso è il titolo del quadro. ma io non mi ricordo più che cosa dice la quadratura di Heidegger. Appunto, lavati le mani, torna a casa e studia Heidegger. È quello che è successo ad agosto dell'anno scorso. E mi ha colpito tantissimo, perché questa voce interiore, non l'avevo mai sentita prima, mi ha dato letteralmente dello stupido. Il nostro processo mentale, se allenato in un certo modo, è in grado di fare cose straordinarie, di guidartele a tua insaputa. Perché molti mesi prima mia moglie, durante un pranzo, mi dice: abbiamo comprato quell'ufficetto che era di mio padre, l'abbiamo messo a posto, ma perché non ci vai a dipingere? È un po' di tempo che non lo fai. E in quel preciso istante la tua mente si focalizza su quella cosa lì. Prima non ci pensavo, erano 5 anni che non dipingevo più. Gli ultimi dipinti che ho fatto sono esposti, se siete curiosi di vederli, alla Noisteria, che è il ristorante del Noi Tech Park. Sono esposti là. Uno rappresenta gli elementi di natura, aria, acqua e terra, e l'altro l'elemento, il quarto elemento della filosofia greca, che è il fuoco, che rappresenta la tecnica con la quale l'uomo ha manipolato la materia e di conseguenza la vita. Noi siamo uomini perché possediamo la tecnica, abbiamo la capacità di fare strumenti sempre più sofisticati che ci consentono di manipolare la materia e di conseguenza la vita. E questa cosa è sorprendente. Questi quadri che io ho fatto, li ho fatti perché volevo dare un regalo al Tech Park che ho progettato assieme ai miei colleghi, e contemporaneamente mi piaceva che rimanesse, ma non c'è nemmeno il mio nome, nessuno sa che li ho fatti io e nessuno sa che titolo hanno, perché io non sono interessato al processo artistico, sono invece interessato al processo mentale che porta a quello. Sta di fatto che quando mia moglie mi ha detto: perché non torni a dipingere, io ho telefonato al mio falegname di fiducia, che è qui presente, e gli ho detto: mi prepari 2 bei pannelli di legno 180x90 e poi dei profili che devo incollarli. E lui mi ha detto: ce li ho giusti giusti, ma siccome te li devo rifilare saranno 178x178 ed è la dimensione del quadro. Mai fatto in vita mia un quadro quadrato, chissà perché si chiamano quadri, perché di solito dovrebbero essere quadrati, ma io non li ho mai fatti quadrati. Però quella volta ho ordinato un pannello di questa dimensione. Poi sono andato sabato successivo a comprare una bella tela di cotone, l'ho incollata su questo bellissimo pannello, poi gli ho dato la cementite, l'ho lisciata con 2 carte vetrate di grammatura diversa, poi con il palmo della mano ho sentito fino a che punto si sentiva ancora la tela sotto e l'ho lasciata lì. E sono passati dei mesi. Questa bella tela incollata su dei pannelli sono rimasti lì fermi per alcuni mesi. Eccolo qua. Sono rimasti lì fermi per alcuni mesi e quando io ho iniziato a dipingere non ricordavo più la tecnica manuale che avevo usato nelle pitture precedenti e ho iniziato a dipingere dal basso. Ho tirato quella riga che voi vedete. E ho iniziato a dipingere l'acqua, perché a qualcuno che mi conosce ho detto che avrei fatto un paesaggio grigio. C'è molto blu, pochissimo grigio. Però io il colore che ho comprato di più era il grigio. Ho comprato tantissimo grigio, che però immancabilmente veniva cancellato dal resto del colore. Chissà come, non lo so neanch'io. E poi a un certo punto, siccome questa cosa non mi veniva bene, ho iniziato con un coraggio che non mi sentivo mio, ho preso la trementina e l'ho versata sopra e poi con il rullo da pittore, quelli da imbianchino per intenderci, ho iniziato a tirare questo colore. E avevo il terrore di rovinare tutto, perché poi uno spende dei soldi e vuole che gli venga bene la prima volta. E in quante occasioni ho pensato: mi sta venendo una grandissima schifezza, forse è il caso di prendere tutto e buttare via e ricominciare da capo. E lui, il mio compare, mi diceva: stai calmo, qualcosa di buono verrà fuori, ci vuole solo un po' di tempo. Poi ho iniziato a dipingere il cielo. Ho messo del grigio, ho messo dell'azzurro, ho messo del bianco e sono venute fuori delle nuvole strane, verticali, che voi vedete là in alto, e che a un certo punto ho pensato: ma che nuvole sono queste? Tutte diverse, tutte strane, mi sembrano più dei personaggi di un palcoscenico. Perché la quadratura di Heidegger che cosa ci dice? È il 6 giugno 1950, quando Martin Heidegger, forse il più grande, sicuramente il più discusso filosofo del primo Novecento, tiene una conferenza all'Accademia di Belle Arti di Berlino e in quell'occasione dice che il modo con cui l'uomo è nel mondo è quello dell'abitare. E noi possiamo abitare solo se abbiamo un rapporto con le cose del mondo di tipo essenziale, che si contrappone al tipo strumentale con cui usiamo e manipoliamo le cose del mondo. Ogni volta che noi guardiamo un terreno, io poi che sono architetto mi viene in automatico, ma se io qui dovessi farci una costruzione, dove la metterei? Non mi viene mai da pensare che quel posto va bene così. E voi non lo sapete come non lo sapevo io, fino quando non ho letto un libro straordinario sulla materia del mondo, che ci dice quanto materiale continuiamo a estrarre dal mondo, dalla terra. Metalli, terra, sabbia. Voi sapete che il più grande trasporto al mondo di materie prime è sabbia. Noi trasportiamo una quantità, estraiamo una quantità di sabbia impressionante per fare vetro, per fare il silicio, per riempire le baie a Dubai perché vogliono costruirci delle case di villeggiatura e via dicendo. Estraiamo di tutto in quantità infinita e quindi abbiamo pensato che la terra sia il nostro deposito di materia prima e sia lì per consentire a noi di trasformarla. Siccome Dio è il primo architetto, dico sempre che noi architetti, una volta morti, finiamo all'inferno. Gli abbiamo rovinato il suo capolavoro. I posti più belli del mondo siamo arrivati noi architetti, li abbiamo rovinati. Se voi, molti di voi come me, sono di origine veneta e frequentate magari ancora quei luoghi, sapete che ad esempio Verona aveva un hinterland di colline meravigliose che oggi noi abbiamo riempito di piccole fabbrichette di pessima fattura. Un territorio che era meraviglioso l'abbiamo rovinato in 4-4-8. Siamo bravissimi. Questi piccoli omicoli che rappresentano lo 0,01% della biomassa mondiale, perché il 97,3% sono piante, arbusti, licheni e via dicendo, il 2,7% sono animali, prevalentemente insetti, e lo 0,01% siamo noi sapiens. Non contiamo niente dal punto di vista del peso della biomassa, ma siamo i dominatori del mondo. Lo abbiamo trasformato tal punto che oggi abbiamo anche qualche perplessità che questo nostro stile di vita sia ancora sostenibile. O abbiamo dei dubbi su questo? Che noi abbiamo creato un'era geologica che molti scienziati chiamano antropocene. Vuol dire che noi abbiamo modificato pesantemente il corso della storia del pianeta. È vero che la meccanica quantistica ci dice che il mondo è relazione e memoria. Il nostro mondo è relazioni e memoria. E se noi non ci fossimo, il mondo non sarebbe così. Questa è una certezza. E la quadratura di Heidegger in quella conferenza del 6 giugno 1950 dice che la nostra vita sta dentro a questa cornice, che è fatta di terra e cielo, divini e mortali. Terra e cielo, anche sotto il mare c'è la terra, e il cielo è il cielo. Però se andiamo più a fuoco, più dentro a questo discorso, la terra è la materia, il cielo è lo spirito. E la nostra cultura è stata condizionata tantissimo da Cartesio quando ha detto che noi cogito ergo sum, cioè tutto quello che conta, io esisto se esiste il nostro pensiero. Ma il nostro pensiero non dipende dalla separazione tra la materia e la mente, perché la nostra mente dipende anche dal nostro corpo e non è possibile separare la nostra mente dal nostro corpo. Tutti noi ci lamentiamo, invecchiando, che abbiamo gli acciacchi, mentre io ho ancora una mente sveglia e moderna e giovanile. No, tu sei l'insieme che è fatto di corpo e materia. E quindi noi non possiamo separarci, il nostro corpo fa parte della nostra... Se mangiate male, se digerite male, avrete pessimi pensieri. E i pensieri dipendono anche da quello che noi mangiamo, il famoso microbiota e via dicendo. I divini e mortali, mi potrete dire, ma i divini non ci stanno più, sì, Giove, Nettuno, Zeus, Venere, Afrodite, quelli non ci sono più. Forse non c'è più nemmeno il Dio cristiano, che Nietzsche ha detto che è morto già da qualche tempo. Ma già là fa ancora mondo per qualche centinaio di milioni di islamici. Li condiziona pesantemente ancora. E poi siete sicuri che noi in Occidente non abbiamo più divini? Perché il Dio denaro non è un divino che condiziona pesantemente la nostra vita? E la dea tecnologia o tecnica, che è la sorella maggiore della tecnologia, non ci condizionano molto la nostra vita? Qualche mese fa ero nel bar sotto il mio ufficio e fuori c'era ancora caldo, c'erano tre ragazzi giovani, 25-26 anni, una femmina e due maschi. La racconto sempre, sto aneddoto. La ragazza molto bella, con delle bellissime gambe, una bella minigonna, e i due maschi invece di guardare le gambe della ragazza come stavo facendo io, erano al cellulare a guardare qualche cagata sui social media. E lì ho pensato, se la tecnologia è in grado di cancellare la necessità di natura, che fino a qualche anno fa sarebbe stato per un maschio guardare due belle gambe di donna, vuol dire che stiamo cambiando la nostra biologia, che la tecnica è in grado di cambiare la nostra biologia. Perché ai miei tempi, quando ero giovane io, non ci sarebbero stati santi. Se c'erano due belle gambe, un maschio le avrebbe guardate. Oggi preferiamo guardare uno smartphone. C'è qualcosa che non va. Allora, questa quadratura significa che è il nostro contesto, ma se noi lo analizziamo meglio, questo contesto in cui noi ci muoviamo, questa cornice, lui la chiama kefirt, quadratura tradotta in italiano, non mi pare una traduzione spettacolare, però va bene così, questa cornice ci dice che noi viviamo in quel contesto. Ma che cos'è quel contesto? Noi ci rapportiamo con l'ambiente, ci rapportiamo con gli altri viventi, ci rapportiamo con i valori che noi abbiamo, con le ideologie che noi abbiamo, che ci condizionano pesantemente, e ci rapportiamo con lo spirito che abbiamo. Queste quattro cose fanno la nostra mente, e la nostra mente è in grado di fare cose meravigliose che adesso vi racconterò. Dai Gigi. Relazione e memoria, dicevo, fanno il nostro mondo. E vediamo le cose non per come sono, ma per come siamo fatti noi. E quindi è evidente che è il nostro mondo. Ma che cosa mi è successo tra agosto e dicembre dell'anno scorso? Io vi ho detto, avevo preparato questa grande tela, perché poi sono esagerato, esposto volentieri, chi mi conosce lo sa, e non mi accontento di fare un quadro piccolo. Ho detto alla mia mente, prova a fare un quadro grande, 180x180, e io non avevo la più pallida idea di cosa fare. Vi avevo detto prima che a qualcuno ho raccontato che avrei fatto un paesaggio grigio. Ho tirato una riga con una stagia di legno e ho iniziato a spalmare colore che era grigio e azzurro, grigio e blu. Prima con la spatola, poi con i rulli, poi con le spugnette per lavare i piatti, ne consumo a decine. L'unica cosa che non uso sono i pennelli, uso tutti gli altri materiali possibili, immaginabili, perché non sono un artista, questo è abbastanza evidente. E quando ho finito il mare, ho tirato un'altra striscia e ho fatto la terra, una fascia verde. Poi ho iniziato a dipingere il cielo, le nuvole e via dicendo, e quando sono sceso la parte in basso non mi piaceva più. I colori non si sposavano bene, almeno lì ero io che valutavo il tono dei colori. E allora la cosa sorprendente è che ho ripreso la stagia, ho rimesso per tirare con la spatola il nero, perché ho ricoperto il mare di un nero profondo. Non so che cosa volessi fare. E a un certo punto Il caso, perché non va più? Ecco, il caso mi fa uscire su questa parte in basso che era tutta coperta di nero, mi fa uscire quelle tre sbavature che io nel mio modo di pensare e anche quelle cinque macchie che oggi vedete come uccelli, nel mio modo di pensare avrei dovuto correggere immediatamente perché i difetti non mi piacciono. E qualcuno dentro di me mi ha detto, calma, aspetta un attimo, potrebbero tornare utili. E quando ho ripreso il mare mettendoci sopra il nero e poi con la spugnetta l'ho tirato via ed è tornato fuori il blu, e poi gli ho detto non mi piace ancora, e allora ci ho messo sopra il bianco, era tutto coperto di bianco e con la spugnetta ho tirato via ed è venuto fuori di nuovo il blu, ho detto non mi piace ancora. E allora con la spatola ci ho messo sopra un azzurro più chiaro e con il rullo da pittore da imbianchino l'ho tirato e la velatura è diventata spettacolare. Ma quelle tre macchiette nere erano rimaste là e di colpo nella mia testa si è illuminata questa idea, sono tre isole. Allora gli ho dato il color terra e poi quelle macchietline che venivano fuori dall'aver appoggiato questa staggia sporca, che cosa sono? Sono degli uccelli. Ed è incredibile come a un certo punto il tuo processo mentale, influenzato dal caso, ti porti a fare delle robe che tu non avevi neanche lontanamente pensato. Ma questo capita su un quadro, ma potrebbe capitare a tutti noi nella vita di tutti i giorni. Dipende solo se noi alleniamo la nostra mente per essere creativa. Perché uno dei limiti che ha il nostro cervello è che nel corso del tempo noi sostituiamo la creatività con la competenza. Che va benissimo se io devo fare il chirurgo della mano. Più competente sono, più bravo sarò a operarti la mano. Ma il pomeriggio in cui il chirurgo non opera e va a fare qualcos'altro, se non ha una mente creativa, troverà sempre una soluzione che è scontata, standard. E infatti noi oggi siamo indirizzati, siamo guidati dalla burocrazia, che è il modo per rendere meno creativa la nostra vita. È tutto programmato, è tutto infilato dentro una quadrettatura che ti dice che cosa puoi e che cosa non puoi fare. E quando io, anche come professionista, dico ai miei colleghi funzionari, ma non potremmo fare qualcos'altro in questa maniera? Mi guardano come uno un po' pazzo e mi dicono, ma guarda che noi non siamo qui a fare creatività, siamo qui a fare cose concrete. Ma le cose concrete sono sempre uguali se tu non adotti la creatività per cambiarle. L'intelligenza artificiale come la alleniamo noi? Dandogli in pasto quello che noi abbiamo già fatto, che vuol dire che lo conosciamo già, mentre la nostra mente è in grado di pensare a cose che prima non si erano mai viste. E non c'è nessuna intelligenza artificiale, me lo devono ancora dimostrare, che è in grado di pensare o di fare cose, tutto sommato a quella macchina, che gliene frega di pensare a qualcosa. Perché noi abbiamo bisogno della creatività? Perché nei 300.000 anni che siamo stati sulla Terra, noi sapiens, ma 5 milioni nell'evoluzione umana sulla Terra, perché gli uomini ci stanno sulla Terra da 5 milioni di anni, hanno dovuto affrontare delle difficoltà che non avevano neanche la più pallida idea che cosa fossero. Pensate a un uomo di 1 milione di anni fa, che si trova ad affrontare un terremoto, un'alluvione, non ha mica la protezione civile alle spalle. Che paura avrà avuto questo uomo, di cui non sapeva nulla, che cosa fosse o no, pensava che fosse il divino che ce l'aveva con lui, ma doveva sopravvivere. E in effetti gli archeologi, gli antropologi ci dicono che probabilmente la riunificazione del genere umano, che prima era invece separata in piccoli gruppi, è avvenuta proprio per aiutarsi vicendevolmente nei grandi disastri ambientali. Le alluvioni, i terremoti ci sono sempre state, le siccità, e voi pensate che una piccola comunità di pochi individui è in grado di affrontare queste difficoltà incommensurabili? No, solo riunendosi abbiamo trovato delle soluzioni, sincronizzando i nostri cervelli e trovando delle soluzioni straordinarie. Ognuno di noi, viaggiando, ha scoperto cose fatte centinaia di anni fa, pensate solo alla città di Angkor in Cambogia, assolutamente straordinaria, dimenticata per centinaia di anni in mezzo alla foresta, dove questo popolo non aveva la scrittura, ma ha raccontato tutta la propria storia scolpendola sulle pareti della città. Avevano tutta la nostra tecnologia? No. Ma voi siete sicuri che oggi saremo in grado di fare San Pietro? Io ho qualche dubbio. Qualche anno fa ho visitato la Sagrada Famiglia a Barcellona e tu vedi una differenza enorme tra quello che è stato fatto alla fine dell'Ottocento e quello che stiamo facendo adesso. Adesso viene fatto tutto con macchina a controllo numerico, le colonne sono tutte uguali, mentre prima erano tutte diverse. Cambia completamente il fascino, cambia completamente il pathos. Ma noi abbiamo questa capacità di pensare alle cose che i nostri avi hanno pensato per migliaia di anni per sopravvivere? Nessuno di noi è in grado di studiare i primitivi perché i primitivi hanno lasciato pochi reperti. Però negli ultimi anni abbiamo scoperto delle cose straordinarie, ad esempio abbiamo scoperto una città di 12.000 anni fa, che fino ad ora era un limite che si pensava non ci potessero esistere le città, perché la più antica si riteneva avesse 9.000 anni, in cui questa città in Ucraina, scoperta di recente, era fatta a forma di conchiglia, in cui gli appartamenti erano tutti ravvicinati uno all'altro, tutti attaccati, e gli archeologi ci dicono che il principio di governance di questa città era che per 6 mesi all'anno la famiglia di destra controllava la famiglia di sinistra e per gli altri 6 mesi era la famiglia di sinistra che controllava la famiglia di destra. Quindi non c'avevano nessuna regola generale, ma erano le singole famiglie che controllavano il comportamento delle altre. Poi abbiamo trovato Göbekli Tepe, che qualcuno di voi forse ha sentito, un sito strano al confine tra Siria e Turchia, dove in un sito enorme circolare ci sono delle colonne immense, non è una città. E questi primitivi che cosa ci facevano in questo sito? Pare che si ritrovassero ogni anno per provare a creare dei sistemi di governance al loro interno. Ma siccome erano terrorizzati dai governi ipotetici, dittatura, democrazia, non era ben chiaro come gestirli, provavano queste cose per 6 mesi, poi ognuno tornava nel suo villaggio. Intanto abbiamo provato a vedere come va. Quindi erano popolazioni estremamente intelligenti, molto di più di quello che noi possiamo immaginare oggi, che non valutiamo solo perché non abbiamo abbastanza dati per poterli apprezzare. Ma tutti gli studiosi ci dicono che la preistoria ci sta raccontando delle cose meravigliose, se no non saremmo arrivati qua, con le difficoltà che avevano loro, che per gran parte della loro vita hanno vissuto in condizioni climatiche terribili, hanno superato difficoltà immense, si sono cibati di cose che ogni tanto non riuscivano nemmeno a trovare. A noi basta che chiudano il negozio un'ora prima e siamo già in crisi. Se poi la temperatura cala un pochino, abbiamo tutti il raffreddore. Come siamo fatti noi? Montiamo e rismontiamo tutto quello che ci passa per la testa. E questo per un meccanismo mentale che serve per proteggerci. Appunto, in 5 milioni di anni il nostro cervello si è evoluto per affrontare la paura, che voleva dire una preda, che voleva dire un avversario. E tu non avevi il tempo di chiedergli, ma tu mi vuoi uccidere o mi vuoi bene? Perché quello ti aveva già fatto suo. E il felino, se tu non lo vedevi in tempo, ti aveva già mangiato. E quindi il nostro cervello che cosa fa? Frantuma tutto quello che accade intorno a noi, lo fa diventare una quadrettatura per farti mettere l'attenzione, altrimenti impiegherebbe troppa energia, sul dettaglio che ti serve per ripararti. Ed è un meccanismo straordinario e quindi quando lui lo frantuma, qualsiasi immagine, qualsiasi suono, e non è un caso che qualcuno di voi avrà provato, che anche se vostro figlio fa un casino della Madonna dentro casa, voi la penichella pomeridiana siete in grado di farla lo stesso. Poi però quella sera lì, quella notte o la notte dopo, vi svegliate, non c'è nessun rumore, non avete nessuna preoccupazione e vi domandate perché vi siete svegliati. E nel momento in cui ci mettete un po' di attenzione, sentite la goccia del lavandino che batte sul lavello. Per il vostro cervello, che non è abituato a sentire quella goccia che cade, è un allarme, perché potrebbe essere un animale che striscia o potrebbe essere un altro pericolo, e quindi vi sveglia anche se è un rumore piccolissimo. Mentre vostro figlio, siccome lo conosce, il cervello non gli fa nemmeno caso. Può fare tutto il casino che vuole, se voi avete voglia di farvi la penichella ve la fate. E quindi il nostro cervello si è evoluto per proteggerci dai pericoli, perché no, non saremo più qua. E quindi è una cosa straordinaria. Quindi noi smontiamo e rimontiamo per dare forma a un mondo, a un panorama e spingerci molto lontano dalla realtà che ci circonda. E questo meccanismo mentale è definito dalle neuroscienze creatività. E ce l'abbiamo tutti. Spesso crediamo che la creatività sia un talento, come nascere appunto bravo a disegnare o come nascere bravo a suonare. Io avevo un cugino che metteva gli sci, io avrei dovuto fare 10.000 corsi e lui metteva gli sci e sciava perfettamente senza avere mai sciato prima. Quello è un talento naturale, ma la creatività ce l'abbiamo dentro tutti quanti, se no non saremmo arrivati fino qua. E le nostre nonne, quando volevano risolvere un problema di casa, mettevano a riposo il loro cervello iniziando a sferrugliare a maglia e il giorno dopo una soluzione la trovavano. Perché il nostro cervello, per trovare le soluzioni migliori, deve essere messo non di fronte alla necessità di trovare la soluzione subito. Spesso e volentieri noi, in questa epoca, abbiamo la fretta di trovare la soluzione. Perché ti dicono tutti quanti, ma c'hai il computer che ti aiuta, fa tutto lui, e magari facesse tutto lui, no? Se non gli dico io che cosa fare, lui non fa proprio una bella fava. Però oggi ci siamo inventati questo meccanismo che lui può aiutarci a risolvere le questioni. No, è la nostra mente che può aiutarci a risolvere le questioni anche più difficili, ma dobbiamo tornare a farlo assieme e dobbiamo allenarla, perché è un muscolo come tutti gli altri muscoli. E la cosa che a me mi fa imbestialire è che se uno deve andare a fare una gara di sci, si deve allenare e ne è cosciente. Se uno deve suonare uno strumento assieme a un gruppo, non da solo, si deve allenare, se no non suona niente di buono. E invece per pensare ci siamo convinti che il nostro cervello lo lasciamo lì, non gli facciamo fare niente di intelligente, non leggiamo, non impariamo nuove parole, non lo sollecitiamo con cose curiose che possano stimolarlo, mostre, teatro, altre cose stimolanti, e siamo sicuri che quando servirà lui risponderà in maniera positiva. E invece, essendo un muscolo come gli altri, quando ti servirà una cosa intelligente, tu, se non l'hai allenato, non sarai in grado di darti nessuna risposta intelligente. Infatti, il più delle volte, quasi tutti noi diamo delle risposte stupide. Però se tu dici a qualsiasi persona, ma ti vedo fuori forma perché magari c'è un po' di pancetta, magari lo vedi un po' affaticato, dice sì, sai, hai ragione, ho avuto un periodo difficile, ero molto impegnato sul lavoro, non ho potuto allenarmi, non si offende nessuno. Ma se tu dici a qualcuno, ti vedo un po' stupido, che è la stessa cosa per dire non ti vedo allenato mentalmente, si offende subito. Come stupido a me? Io? Cosa credi di essere tu, no? E noi siamo convinti che se Dio ti ha dato il dono di avere un cervello all'altezza, tu rimarrai intelligente tutta la vita, anche se non lo alleni. E se invece non te l'ha dato, tu sarai stupido tutta la vita. Non è proprio così. C'è un libro grande così che ti racconta delle sciocchezze che hanno sparato i premi Nobel, quindi persone che hanno dimostrato di essere intelligenti perché hanno vinto un premio Nobel, ma poi quando l'hanno vinto, il delirio di onnipotenza, la tracotanza, la famosa hybris, gli ha fatto perdere la linea dritta, hanno pensato di poter raccontare, di poter esprimersi in settori che non conoscevano per nulla e hanno sparato grandissime cazzate per tutto il resto della loro vita. È affascinante leggere dei congressi di fisica quando Einstein è il più grande fisico della storia del Novecento, però di fisica quantistica non ne capisce nulla. Ma siccome quelli che l'hanno scoperta erano molto più giovani di lui e non avevano ancora vinto il Nobel, Heisenberg, Bohr e tutti gli altri, ai congressi di fisica dicevano: Einstein, sta calmo che stai dicendo fesserie. E lui, siccome però era il fisico più importante, era convinto di poter, dalla forza della sua, infatti scrive un libro a un certo punto che dice che Dio gioca dati con noi, e non è affatto vero. Ma questo è un altro tema, lo apriremo in un'altra occasione. Questo semplicemente per dire che noi possiamo diventare più intelligenti di quello che siamo o più stupidi di quello che siamo naturalmente, semplicemente se noi alleniamo le nostre capacità cognitive. E le nostre capacità cognitive le alleniamo se noi siamo solleticati da cose interessanti. Prima Lampis diceva che la nostra vita si allunga e si accorcia in funzione anche di quello che visitiamo. Oggi sappiamo con certezza che il verde ci fa molto bene. Se noi viviamo in ambienti con un rapporto col verde, questo ci aiuta moltissimo. Perché? Perché per milioni di anni siamo vissuti accanto al verde. E il nostro cervello, quando vede il verde, si illumina, perché automaticamente per lui, nella sua memoria antica, il verde voleva dire anche risorsa d'acqua. Siccome spesso viveva in zone che non erano proprio sempre piene di verde, quando vedeva alcuni alberi in una zona magari un po' brulla, quello era il segnale che lì c'era una risorsa d'acqua. Non avevano l'acquedotto come noi, non aprivano un rubinetto, dovevano andarla a cercare l'acqua. Allora il verde ci fa molto bene. Ci fa molto bene vedere l'arte, perché l'arte stimola mille cose. Ci fa molto bene ascoltare musica. Ci fa molto bene leggere libri di letteratura interessante. Se non l'avete letto, ve lo consiglio a tutti, gli ultimi due cosiddetti romanzi, ma secondo me non sono nemmeno dei romanzi, di Cormac McCarthy, Il passeggero, e Stella Maris, che non hanno avuto grande successo, malgrado i suoi romanzi precedenti, tipo Non è un paese per vecchi o La strada, semplicemente perché è il suo lascito intellettuale e sono due libri difficilissimi. Però parlano di noi, della nostra follia, e tutti dovrebbero leggerli. Sono due libri straordinari che ti fanno capire come un letterato può anche non essere solo un letterato, come questo signore ha avuto due vite. Per la prima metà della sua vita ha fatto il professore universitario di letteratura e per la seconda parte della sua vita fa il neuroscienziato. Questo perché noi non sappiamo che cosa solleciti la nostra creatività. Ma noi siamo certi, e ce lo dicono tutti i centri di ricerca nel mondo, che per attirare un giovane ricercatore da qualche università interessante lo volessimo portare a Bolzano, le prime cose che questo ricercatore guarda dopo aver visto se il laboratorio in cui gli propongono la ricerca è finanziato, è un laboratorio interessante, ci sono dei collaboratori interessanti, guarda se il contesto in cui è inserito questo laboratorio è ricco di iniziative culturali, perché lui sa se quella città invece è povera di musica, di teatro, di cinema, di mostre d'arte, vi dicendo, sa che non sarà sollecitato abbastanza bene per fare delle scoperte interessanti. Noi dovremmo tornare a fare questo. E la cosa che mi viene da dire, ed è il senso di questo quadro, che della realtà noi non percepiamo assolutamente nulla. Non c'è una realtà stabilita prima. Tutto dipende dalla nostra memoria, che significa da quello che ricordiamo, ma anche da quello che dimentichiamo. E spesso la nostra mente dimentica delle cose volutamente, perché decide poi lei come riempire i vuoti che ci lascia, perché qualche volta per sopravvivere dobbiamo dimenticare alcune cose e poi lei ce le fa percepire in un'altra maniera. E quindi la narrazione che noi ci facciamo, il mondo che noi ci costruiamo, è un mondo diverso. Vedete lì, in mezzo mi è venuto alla fine questa specie di pianeta che in realtà rappresenta il nostro mondo interiore, l'universo che ci costruiamo tutti i giorni in base alle esperienze che facciamo, in base a quello che incontriamo. E l'ispirazione che fa partire il processo creativo, e tutti noi abbiamo ogni tanto detto, oh, mi è venuta un'idea. E perché a quel punto scatta quest'idea? Il processo creativo coinvolge percezioni sensoriali, dipende dai sensi che abbiamo, da quanto sono sviluppati e via dicendo, affettive e cognitive. Quindi se noi sollecitiamo queste tre basi, la nostra creatività aumenterà in una dialettica che è tra ragione e immaginazione, ragione e immaginazione, che fanno parte del processo mentale che coinvolge i nostri due emisferi cerebrali, e ragione e immaginazione vengono fuori, sono due doni che vengono fuori dalla collaborazione tra i due emisferi cerebrali. Hanno compiti diversi, molte funzioni sono simili, ma hanno compiti diversi. Ad esempio, la parte destra, l'emisfero destro, è molto più empatico, è molto più creativo, è la parte femminile di noi, la creatività, ricordatevelo, è femmina, e anche noi maschi, quando vogliamo essere creativi, dobbiamo tirare fuori la nostra parte femminile. L'emisfero sinistro è molto più razionale, freddo, calcolatore. Ovviamente abbiamo bisogno di tutte e due queste cose per sopravvivere. Ma noi sarebbe giusto che le mixassimo nel giusto equilibrio. Un po' di empatia in più qualche volta, un po' di freddezza in più qualche altra volta. E questo signore ci racconta in questo straordinario libro come nei vari momenti della storia, a seconda se ha dominato di più l'emisfero destro o l'emisfero sinistro, abbiamo ottenuto nella storia dei risultati diversi. Oggi viviamo nel tempo dell'emisfero sinistro. Tutto basato sul business, sul dio denaro, sull'efficienza, empatia poca, emozioni ancora meno, follia, meglio abbandonarla. Mentre la follia che ci fa anche far uscire quegli elementi artistici. Dicevo prima che ci alleniamo per tutto, escluso che per il nostro cervello, ma la conclusione che mi viene da dire per questo quadro che ho fatto, ma che non è un pezzo d'arte, è semplicemente una prova per vedere che cos'era in grado di fare il mio processo mentale, è che la sostenibilità del nostro pianeta sarà possibile solo se sarà sostenibile il nostro pensiero. Credo di avere concluso la serata, vi ringrazio anche perché vi ho disturbato abbastanza e sarà un piacere rivedervi in un'altra occasione. Grazie. Un attimo solo, un'ultima cosa. Per tutti voi che siete venuti, c'è un taccuino che la grande Cartiera Pigna ci omaggia, un taccuino disegnato nella copertina da Joe Ponti, quindi prima di andarvene passate a prendervelo, e poi c'è una bottiglia di spumante per festeggiare il nuovo anno al Trevi. Quindi vi aspetto lì per festeggiare con una bottiglia di Prosecco e prendetevi il taccuino. No, ce ne sono tante bottiglie. Dai che andiamo a...